giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ammesso il giudizio abbreviato per i tre imputati nel procedimento per la morte di Shinpei Tominaga, colpito da un pugno in un locale di Udine. Il GUP ha disposto per l'autore del gesto gli arresti domiciliari in attesa del processo, accolta anche la richiesta dell'avvocato di uno dei tre di perizia psichiatrica per il suo assistito. La crisi alla Flex, il giorno dopo lo stop della trattativa con il fondo tedesco e il rinvio a gennaio dopo un confronto con la casa madre in America. Mentre il ministero ha offerto il suo supporto invitando l'azienda a tornare sui suoi passi rispetto alla cessione, oggi era in programma l'assemblea dei lavoratori per valutare il da farsi. Prosegue in consiglio regionale il dibattito sulla legge finanziaria e sui relativi emendamenti presentati. Oggi in discussione agricoltura e ambiente. Il voto finale sull'elaborato è previsto entro domani con una possibile seduta a oltranza. In calo l'incidenza nell'influenza dell'ultima settimana di novembre e l'inizio di dicembre. Maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni d'età e tra le aziende sanitarie quella Giuliano Esontina registra l'incidenza più alta. Il picco è atteso tra fine anno e metà gennaio. Stanno intanto andando molto bene le vaccinazioni anti-influenzali. La clinica oculistica dell'azienda sanitaria Giuliano Esontina ha lanciato un appello per ricordare l'importanza di sottoporsi a controlli della vista regolari per scoprire in tempo se si ha la patologia del glaucoma. Inaugurata al parco del seminario a Pordenone la mini foresta Miyawaki, primo impianto di microforestazione. L'iniziativa completa il progetto Custodi di Equilibri per la gestione della propedeutica al lavoro e per favorire l'inclusione sociale dei ragazzi. Le 12:32 minuti, questi titoli e ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Daniele Lettig che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 12 dicembre. In apertura dunque la cronaca giudiziaria, perché stamane era in programma l'udienza preliminare in corte d'assise a Udine nel processo per la morte dell'imprenditore giapponese Tominaga ucciso da un pugno in un locale cittadino. Sentiamo com'è andata. La giudice per l'udienza preliminare, Roberta Paviotti, ha ammesso il giudizio abbreviato per tutti e tre gli imputati del procedimento per la morte di Shinpei Tominaga. Samuele Battistella, 20 anni, colui che ha materialmente sferrato il colpo, verrà scarcerato oggi e tornerà a casa agli arresti domiciliari. Stefano Arrigo, suo avvocato difensore, afferma che è stato revocato l'obbligo del braccialetto elettronico, visto che a tutt'oggi, nonostante fossero stati concessi i domiciliari, Battistella era ancora in carcere per mancanza del braccialetto. Accolta anche la richiesta dell'avvocato di uno dei tre, Abdallah Juama, per una perizia psichiatrica per il suo assistito, fissata al 16 gennaio l'udienza per conferire l'incarico. Il ragazzo ha dei disturbi, indica Guido Galletti, difensore, è in cura attualmente al centro di salute mentale e possono essere dei disturbi che possono avere una rilevanza nella sua capacità di intendere e di volere in relazione al fatto. Rimandata verosimilmente alla primavera la discussione sull'estensione o meno del concorso in omicidio preterintenzionale per tutti e tre, come vorrebbe la PM Collini. Per allora si avranno anche le motivazioni della Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso su questo punto da parte della Procura. Si sono infine costituiti parte civile ai familiari di Tominaga, chiesto un risarcimento intorno al 1 milione di euro, e i due che quella sera hanno riportato lesioni dopo il pestaggio da parte dei tre venuti dal Veneto. L'amico dell'imprenditore è uno dei due ucraini, decisivi filmati delle telecamere per ricostruire tutta la dinamica. A parere di Alberto Tedeschi, avvocato di parte civile della famiglia Tominaga, i tre hanno agito in concorso. Quella sera hanno cominciato con dei ragazzi ucraini e sono finiti a dare un pugno, spalleggiati l'uno con l'altro, uccidendo l'imprenditore Shinpei Tominaga. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi un'altra udienza a Roma per il processo sulla morte al Cairo di Giulio Regeni, che vede imputati 4007 egiziani. Fra poco è prevista la deposizione in aula del cosiddetto testimone Gamma, il cittadino keniota accusatore di uno degli imputati. L'uomo deporrà sotto protezione per ragioni di sicurezza. E parliamo ora della crisi alla Flex, il giorno dopo lo stop della trattativa con il fondo tedesco e il rinvio a gennaio dopo un confronto con la casa madre in America. Mentre il ministero ha offerto il suo supporto invitando l'azienda a tornare sui suoi passi rispetto alla cessione, oggi era in programma l'assemblea dei lavoratori per valutare il da farsi. Sentiamo com'è andata. È evidente che siamo di fronte a un tentativo di riorganizzare un'azienda, tenere qualche asset e mandare a casa la gran parte dei lavoratori, cosa che noi non possiamo accettare. Antonio Rodà, Wilm e con lui le altre sigle sindacali, FIM, FIOM e UGL, ma anche il Ministero e la Regione dicono no alla speculazione di Firecap, il fondo tedesco che ha firmato un accordo preliminare per l'acquisto della Flex dalla multinazionale americana Manufacturing. Le intenzioni di Firecap sono emerse al tavolo ministeriale durante il quale i rappresentanti del fondo tedesco, dopo aver raccontato di possibili sviluppi industriali, hanno dichiarato di voler procedere con gli esuberi una volta acquisita l'azienda. Alessandro Gavagnin, FIM. È stato chiaro il governo e quindi ha chiesto la disponibilità a Flex a fermare tutto e a fare anzi un passo indietro rispetto all'ultimo incontro e quindi ricominciare una trattativa seria, ma soprattutto con la volontà di mantenere tutti i posti di lavoro. Il fondo tedesco ad aprile ha acquistato un'azienda di Imola, la Electrosystem, che si occupa di cablaggi industriali. Con essa e con altri potenziali clienti il fondo sarebbe intenzionato a sviluppare sinergie per raggiungere un fatturato stabile. Il rappresentante del Ministero delle Imprese del Made in Italy però ha convinto Flex a congelare la trattativa di cessione dell'azienda per cercare altre soluzioni che diano risposte ai 350 dipendenti dello stabilimento triestino. Di questi oggi 222 sono in contratto di solidarietà, lavoratori con un'età media tra i 40 e i 50 anni di un'azienda che produce componentistica elettronica. Marco Relli, FIOM. Ci sono le rassicurazioni del governo per l'interesse dell'asset strategico, che significa la professionalità di questi lavoratori, in un settore che in Europa manca ed è carente, che è quello dell'elettronica. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La politica prosegue in Consiglio regionale il dibattito sulla legge finanziaria e sui relativi emendamenti. Il voto finale sull'elaborato è previsto entro domani con possibile seduta a oltranza. Il Consiglio regionale ha approvato stamane l'articolo 3 che riguarda le risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagne. L'assessore Zannier e i consiglieri hanno illustrato gli emendamenti già ieri sera, stamane le ultime presentazioni, tre quelli approvati del patto per l'autonomia, uno riguarda la valorizzazione dei prati stabili naturali con l'innalzamento del contributo forfettario annuo che passa dai 250 ai 350 euro ad ettaro e quello presentato da Enrico Bullian, sempre del patto per la promozione e la fruibilità dei cammini a piedi. Credo sia un passaggio importante di riconoscimento del valore del turismo lento e delle cosiddette vacanze a piedi. Valorizzare questo tipo di cammini è significativo perché permette anche di manutenere al meglio il territorio, le nostre tradizioni e la nostra cultura. Mentre l'Aula si sta occupando degli emendamenti che riguardano l'ambiente, ieri è stato approvato anche l'articolo 2 sulle attività produttive e il turismo. L'intervento di maggior peso economico è stato destinato al COSELAC, il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area giuliana, 8 milioni di euro per un'infrastruttura, una base industriale per favorire anche l'attrazione di investimenti. 2 milioni di euro andranno per l'interporto di Trieste e di Fernetti per la realizzazione di un'infrastruttura di stoccaggio di merci sensibili. Soddisfatti i consiglieri di maggioranza per le iniziative che rendono la regione più attrattiva sia dal punto di vista economico che turistico. Roberto Novelli di Forza Italia. Questa regione è una regione di confine, piccola, che ha bisogno di uno sviluppo socio-economico importante ed ecco che le misure messe in atto, soprattutto anche nell'ambito delle attività economiche e turistiche, danno un impulso ulteriore che, ripeto, ha una prospettiva di media-lunga durata. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo alla cronaca. Un uomo e una donna, cittadini peruviani senza fissa dimora, sono stati arrestati da agenti della polizia di Pordenone per furto aggravato di una tessera bancomat ai danni di un'anziana in un supermercato, con la quale la coppia aveva poi effettuato un prelievo di 1000 euro presso uno sportello automatico. Trovati in possesso del portafoglio di un'altra donna borseggiata poco prima in un altro esercizio commerciale, dopo l'arresto i due cittadini peruviani, colti entrambi nella fragranza del reato di furto aggravato, sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per verificare se la coppia, oltre ai furti accertati, si sia resa responsabile in precedenza di altri episodi simili. In un'altra operazione i carabinieri hanno arrestato un 54enne italiano e la coetanea cittadina rumena, entrambi residenti a Motta di Livenza, per un furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Prata di Pordenone. Chiamati dalla titolare del negozio, i militari hanno accertato che i due avevano occultato alcuni capi di vestiario nella borsa della donna dopo aver rimosso i relativi dispositivi antitaccheggio. Nel corso del 2024 sono stati controllati oltre 100 licenziatari del marchio regionale Io Sono Friuli Venezia Giulia. Gli ispettori dell'Istituto di San Daniele, specializzato in alimenti, hanno visitato 54 aziende, tra cui 17 produttori di salumi e carni, 11 di prodotti da forno e dolciari, 8 realtà orticole, 7 caseifici e poi ancora realtà di itticoltura, frutticoltura, apicoltura, olivicoltura e un aceticificio. Parallelamente, l'istituto Cevic di Pradamano, specializzato invece in bevande e vini, sta eseguendo 50 sopralluoghi su cantine e distillerie. Si tratta di un'attività prevista dal regolamento di concessione del marchio, che oggi è stato ottenuto da 414 aziende, per complessivi 1.194 prodotti certificati, a cui si aggiungono oltre 1.500 eventi nell'arco dell'anno. L'associazione Penelope, da anni impegnata sul fronte del supporto alle famiglie e della sensibilizzazione, è un punto di riferimento prezioso. Quella del Friuli Venezia Giulia, di recente costituzione, in occasione della giornata nazionale, invita tutti a partecipare a un gesto simbolico, accendere cioè una luce verde, un faro di speranza, affinché gli scomparsi possano ritrovare la via di casa. Per l'occasione l'associazione ricorda alcune delle vicende irrisolte del territorio, tra cui i casi di David Concina, Rossella Corazzin, Michele Paolini, Giancarlo Rizzi e Franca Venturini. Questi nomi, insieme a tanti altri, invitano a non smettere mai di cercare, di sostenere le famiglie e di mantenere viva l'attenzione sul fenomeno. E siamo ora alla situazione del meteo. Il cielo è prevalentemente sereno sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa: a Trieste e Udine 8 gradi, a Gorizia 7 gradi e mezzo, a Pordenone 6 gradi, a Foni di Sopra 3 gradi e mezzo, a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 2 gradi, a Tarvisio 0 gradi, a Sappada meno 4 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolano 1 grado e mezzo, sul Monte Lussari meno 3 gradi e 5 decimi, sulla costa a grado 8 gradi, a Lignano 7. Le previsioni per oggi: cielo sereno sulla costa, sul Carso soffierà bora debole con raffiche anche moderate nella prima parte della giornata a Trieste. A partire da questo weekend è previsto un aumento del numero di impianti e piste in Friuli Venezia Giulia, in concomitanza con l'apertura della stagione dello sci nei comprensori di Forni di Sopra e Sella Nevea, che si aggiungono a Piancavallo, Sappada, Forni a Voltri, Ravascletto, Zoncolan e Tarvisio, dove da sabato ripartiranno le corse della telecabina del Lussari. Tariffe ridotte in considerazione delle aperture parziali anche per il prossimo fine settimana in quattro poli, mentre a Piancavallo e Tarvisio si scia ai prezzi di bassa stagione fino a domenica compresa. Lunedì entrerà infatti in vigore la tariffa di alta stagione, ma in alcuni comprensori, quelli in cui le piste e gli impianti non raggiungeranno la soglia del 40% di aperture, verranno applicati sconti sui prezzi dei ticket. E questo è il periodo anche dell'influenza. Risulta in calo l'incidenza nell'ultima settimana di novembre e inizio dicembre, maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età, e tra le aziende sanitarie quella Giuliano Isontina registra l'incidenza più alta di casi. Il picco è atteso tra fine anno e metà gennaio. Stanno intanto andando molto bene le vaccinazioni anti-influenzali. Nella 48esima settimana di sorveglianza epidemiologica, dal 25 novembre al 1 dicembre, stando agli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza delle sindromi simili influenzali in Friuli Venezia Giulia, su oltre 25.000 persone osservate mediamente per settimana, circa il 2% dei residenti, risulta bassa, pari a 7 casi per 1.000 assistiti, in calo rispetto alla settimana precedente, inferiore anche rispetto al dato nazionale che ha registrato 8 casi. Guardando ai dati suddivisi per azienda sanitaria, l'incidenza più alta si registra nella Giuliana Isontina, tra Trieste e Gorizia, con oltre 14 casi per 1.000 assistiti, un dato che risente dell'adesione maggiore in quell'ambito dei medici sentinella alla sorveglianza, che è su base volontaria. Segue la Friuli centrale con 3 casi per 1.000 assistiti e la Friuli occidentale a 2. Si è inoltre osservato che i più colpiti sono i bambini in età pediatrica, l'incidenza più alta, 22 casi, nella fascia di età 0-4 anni. Per i bambini e preadolescenti fra i 5 e 14 anni l'incidenza è stata di 7 casi, per gli adolescenti e gli adulti fra i 15 e i 65 anni di 4 casi e di 2 per gli anziani over 65. Dai 36 campioni clinici analizzati nella settimana osservata non è stato ancora isolato il nuovo virus influenzale H3N2 più aggressivo, ma solo l'H1N1 sempre di tipo A già in circolazione. Il picco è atteso tra Capodanno e metà gennaio. Sul fronte della campagna vaccinale il servizio prevenzione della regione conferma intanto un'adesione in crescita che oggi sfiora le 236.000 vaccinazioni e si attesta ai livelli superiori all'anno precedente, salita in tutte le categorie quasi il 53% nella fascia dei più fragili, gli over 65. Vista l'ancora bassa circolazione del virus, ricordano gli esperti, c'è ancora tempo per vaccinarsi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La clinica oculistica dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha lanciato un appello per ricordare l'importanza di sottoporsi a controlli della vista regolari per scoprire in tempo se si ha la patologia del glaucoma. Il glaucoma è una malattia irreversibile del nervo ottico che porta alla cecità. Ha una frequenza pari al 2,5% tra la popolazione. In Friuli Venezia Giulia ne soffrono 25.000 cittadini. La metà, però, non sa di averlo. Daniele Tognetto, direttore della clinica oculistica dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. La caratteristica più subdola di questa malattia sta nel fatto che c'è un silenzio sintomatologico, cioè chi ha il glaucoma non se ne accorge per niente, e se, a meno che non venga visitato, se ne accorge quando arriva alle soglie finali della malattia, cioè in prossimità della cecità. Fondamentale dunque fare controlli regolari della vista, soprattutto dopo i 40 anni. Bisogna misurare la pressione intraoculare, che è uno dei fattori di rischio più importanti, bisogna guardare il nervo ottico, guardando il fondo dell'occhio, ci sono delle caratteristiche tipiche della malattia e se serve bisogna fare un esame del campo visivo. La clinica oculistica dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina tratta il glaucoma e le altre malattie oculari. In totale effettua 80.000 prestazioni all'anno. Vengono trattate tutte le patologie oculari, quindi da quelle più semplici a quelle più complicate, la cornea, il cristallino, la cataratta ovviamente è quella più frequente, le patologie della retina, quelle prettamente trattate con la chirurgia, cioè il distacco di retina, altre malattie che richiedono chirurgia. E i numeri sono in crescita. L'età media della popolazione aumenta e quindi tutte le patologie dell'anziano ovviamente sono più frequenti e sono tante, la degenerazione maculare legata all'età per esempio è una di queste. In clinica oculistica ogni anno effettuiamo più di 8.000 iniezioni intravitreali per il trattamento di questa patologia. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste, in collaborazione con quella di Trento, ha individuato segni di comportamento intenzionale nella larva di insetto, tradizionalmente ritenuta guidata esclusivamente da riflessi agli stimoli esterni. I risultati dello studio, pubblicato su Scientific Reports, pongono interessanti interrogativi sui criteri di attribuzione dell'intenzionalità alle diverse specie animali. I ricercatori in particolare hanno studiato larve di un coleottero conosciuto come tarma della farina. Si tratta del primo insetto a essere stato ufficialmente approvato per la commercializzazione in Europa come fonte proteica alternativa, accessibile, sostenibile e vantaggiosa rispetto a quelle tradizionali come la carne e il pesce. È stata inaugurata al Parco del Seminario di Pordenone la mini foresta Miyawaki, primo impianto di microforestazione. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della convenzione tra azienda sanitaria Friuli Occidentale e Comune di Pordenone, completando così il progetto Custodi di Equilibri per la gestione della propedeutica al lavoro e per favorire l'inclusione sociale dei ragazzi. Inaugurata nel parco del seminario di Pordenone è l'impianto di una mini foresta con tecnica Miyawaki per la messa a dimora di piante tipiche del territorio e autoctone. La tecnica adottata, di origini giapponese, è progettata per accelerare la crescita di mini foreste in ambienti urbani o degradati. Infatti, si utilizzano mix di specie per formare contemporaneamente il sottobosco, gli arbusti, gli alberi e la chioma delle foreste. L'area, che si estende per circa 50 metri quadrati, prende il posto di vari rovi che erano predominanti lungo il corso del Noncello all'interno del parco stesso. Il progetto, nell'ambito della convenzione tra ASFO e il Comune, è gestita dalla COP Noncello per favorire l'inclusione sociale dei ragazzi coinvolti che apprendono una professionalità nella cura del verde. L'iniziativa ha coinvolto anche gli studenti dell'Istituto Vendramini. Durante lo studio sono state anche analizzate e contrassegnate le varietà di vegetazione spontanea presente, in modo da valorizzare il contesto sotto l'aspetto paesaggistico ed ecologico. Pordenone, Biagio Ingenito, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Udine, in collaborazione con l'Associazione Tutori Volontari del Friuli Venezia Giulia, ha organizzato un incontro dedicato al ruolo del tutore per minori non accompagnati. L'evento si terrà al Cinema Visionario di Udine questo pomeriggio alle 17.30. La prima parte dell'incontro sarà dedicata alla proiezione del documentario The Mind Game, mentre a seguire è stata organizzata una tavola rotonda che esplorerà il ruolo del tutore, una figura essenziale nel supporto anche ai minori stranieri non accompagnati, insieme a Matteo Felci dell'Associazione Tutori Volontari, il giudice onorario del Tribunale dei Minori Lucio Prodam ed Enrico Sbriglia, garante regionale Friuli Venezia Giulia dei diritti alla persona. Un volume per riflettere su oltre 40 anni di storia politico-economica del Friuli Venezia Giulia, tracciando un bilancio delle scelte fatte e cercando un orizzonte per le sfide del presente. È La stagione delle idee, scritto a quattro mani dall'ex assessore regionale Mario Brancati e dal giornalista ed ex direttore della sede RAI regionale Roberto Collini, che lo presenteranno a Palazzo De Bassa a Gorizia alle 17.30. Sentiamo Collini. È un'immagine presa con il grandangolo della vita regionale che va dall'inizio, metà degli anni 70 fino alla fine secolo, che abbraccia quindi è una stagione di grandi idee, di grandi proposte, ma anche una stagione in cui si affermano dei diritti e probabilmente si verificano anche delle occasioni mancate. Quindi parliamo di una storia politica o anche sociale o tutte e due? Dal punto di vista politico possiamo dire questo, che la regione allora era alle prese con, subito dopo la metà degli anni 70, con il grande problema della ricostruzione del post-terremoto e con la gestione complicatissima per gli effetti risvolti politici, soprattutto a Trieste, dell'attuazione del trattato di Osimo. Ma era comunque una regione che in quel periodo era capace di essere modello di spesa per la sanità nazionale, varava tra l'altro il primo piano socioassistenziale a livello nazionale, introduceva anche il 118, un servizio importantissimo. Nello stesso periodo l'Isontino viveva la crisi delle partecipazioni statali del cotonificio di Gorizia, cantiere di Monfalcone, prima ancora che ci fosse l'avvento della politica delle navi bianche. E poi c'era Gorizia che era sostanzialmente arroccata su posizioni di rendita della zona franca. Il titolo, La stagione delle idee, implica o vuol dire che oggi di idee non ci sono oppure che una volta sapevano farsi avanti di più? Vuole essere un momento di riflessione per verificare la bontà o meno di certe scelte e poi per anche creare i presupposti perché ci sia una nuova elaborazione di idee. E siamo allo sport con il basket. Nel recupero della 13ª giornata della Serie A2, la Gesteco Cividale ha perso la seconda partita di fila, sconfitta ieri sera in Puglia dal Nardò per 84-77. Ducali raggiunti ora da Cantù al secondo posto in classifica. Dopo la breve sosta per gli impegni delle nazionali, Cividale non è stata più la stessa e la conferma è arrivata a Nardò. Partita persa, secondo KO di fila contro la penultima della classe e aggancio da parte di Cantù al secondo posto. Senza Mastellari, con Redivo ancora non in piena forma e Miani quasi a mezzo servizio, la partita non si era messa male. Dopo un primo quarto sostanzialmente equilibrato, i Ducali, in maglia rossa, hanno dato il meglio nella seconda frazione. Redivo, in versione regista più che in quella di realizzatore, è stato ben supportato da Marx e Rota nelle conclusioni dalla distanza. La difesa è stata in grado di arginare i pugliesi apparsi in difficoltà nella prima metà di gara. Il più 14 firmato da Rota con una bomba a 3 minuti dall'intervallo lungo e tutto sembrava andare per il verso giusto. Nardò ha cambiato pelle proprio in quel momento e la rimonta è iniziata prima della fine del secondo quarto. Dalla ripresa si è visto che mentre i salentini avevano molte energie da spendere, la Gesteco è andata in affanno nonostante l'impegno di Delle Agnello. I tiri da tre che hanno segnato la progressiva rimonta dei padroni di casa sono diventati il tormento di Pilastrini. La statistica finale parla chiaro, 14 su 25 da una parte, 9 su 28 dall'altra, ma è stata soprattutto la difesa a fare la differenza, efficace quella dei padroni di casa, evanescente quella degli ospiti. Pilastrini ha provato più combinazioni, ma il prodotto non è cambiato, il sorpasso è arrivato a meno di 3 minuti dalla fine del terzo tempo. Nell'ultimo parziale Cividale ha avuto una fiammata, ma è durato poco, 66 a 62, poi è stata travolta dalla piena inarrestabile dei pugliesi, finale 84-77, 49 punti subiti in 20 minuti, devastante Woods, 33 punti con medie realizzative al 70%, fra i friulani 22 punti di Max, quasi tutti messi a segno nella prima metà di gara. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Cari amici di Lilli, il 14 dicembre 2024 saranno 3 anni che Lilli è scomparsa. Inizia così l'avviso diffuso tramite i social che annuncia un'iniziativa in programma sabato per ricordare Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa dalla sua abitazione a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022. E proprio nel punto in cui fu rinvenuto il cadavere, i familiari e noi amici saremo alle 10.30, prosegue l'avviso, sabato 14 dicembre per un momento di raccoglimento e ricordo per Lilli. Nel testo si ricorda anche l'avvio di una petizione online sulla piattaforma change.org intitolata Verità per Liliana Resinovic, con la quale si chiede l'impegno della Procura di Trieste, delle Forze dell'Ordine e del Ministero della Giustizia a mettere un punto a questa triste vicenda che ha visto coinvolto il popolo italiano e non solo. Alcuni appuntamenti di oggi. Cominciamo dal concerto per inaugurare l'anno accademico 2024-2025 del Conservatorio Tartini di Trieste, che si svolgerà questa sera alle 20.30 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi. In apertura l'Orchestra Sinfonica del Tartini, diretta da Silvia Massarelli, vincitrice del premio della critica al concorso Prokofiev di San Pietroburgo, che eseguirà Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev. Nella seconda parte del concerto, l'Orchestra Jazz del Conservatorio, insieme ai jazzisti dell'Accademia di Musica di Belgrado, tutti guidati dal maestro Mirko Rubegni. Suoneranno Duke Ellington e Grieg. Il padre della sposa, commedia esilarante che va in scena da questa sera domenica al Teatro Bobbio di Trieste con Gianfranco Iannuzzo, 70 anni, nei panni del protagonista Giovanni, imprenditore e padre, impazzisce al solo pensiero di lasciare la dorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto. Sipario alle 20.30, solo domenica alle 16.30. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Giorgio Bea, con la collaborazione di Marco Ferrito e Caterina Cabrelli in regia, collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR oggi alle 15. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.